Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Incendi in parte sotto controllo ora in Sardegna, ma brucia anche la Toscana. Rischi per i prossimi giorni a causa delle alte temperature. Tra poco in diretta gli aggiornamenti della Protezione Civile. Fiamme anche in Francia, Spagna e Grecia. In Italia premiato il merito degli Atenei, più fondi alle università migliori, lo ha deciso poco fa il Consiglio dei Ministri. Partito Democratico, Prodi a Radio 24, la fusione precongressuale c'è stata, ora non ci sono rischi di scissione. Influenza A, secondo l'OMS siamo vicini alla propagazione totale, sentiremo esattamente cosa vuol dire più avanti. In Inghilterra un terzo delle vittime non aveva altre patologie. Decreto anticrisi, dopo le tensioni nella maggioranza sul maxi emendamento, questa sera si vota la fiducia. Nei prossimi anni crollo dei prezzi della droga, mentre sul mercato tornerà l'eroina, lo dice uno studio della regione Lombardia. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione, benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo con la cronaca, una cronaca che si snoda tra la serata di ieri, la giornata di ieri e quella di oggi, ed è la cronaca che riguarda gli incendi. Come sapete ci sono state due vittime ieri in Sardegna, bruciano anche altre zone d'Italia. Per fare il punto della situazione siamo collegati con l'ingegner Luigi D'Angelo, che è dirigente dell'ufficio emergenze della Protezione Civile. Buongiorno D'Angelo. Allora, qual è il quadro al momento? Che cosa ci può dire? Allora, al momento sono 9 gli incendi attivi sul territorio nazionale, su cui c'è un concorso dei mezzi della flotta aerea dello Stato. In particolare, chiaramente 7 di questi sono attivi in Sardegna, non si registrano per il momento disagi o rischi per la popolazione. Quest'oggi registriamo comunque temperature alte, ma venti più moderati anche rispetto a quanto avvenuto nella giornata di ieri. E intanto l'incendio della Toscana, a cui lei faceva prima riferimento, da poco ce l'hanno dato in bonifica, quindi sotto controllo da parte delle strutture che operano sul territorio. Ecco, cosa dobbiamo attenderci per le prossime ore? Perché abbiamo sentito parlare, poi lo sentiremo più avanti anche nei nostri servizi, di temperature in crescita e di anche vento in aumento, e quindi rischi che aumentano. Che ci può dire? Beh, le condizioni rimarranno pressoché stabili per tutta quanta la giornata odierna, quindi abbiamo comunque temperature alte nel centro sud Italia, soprattutto sulle fasce costiere tirrenica e adriatica e chiaramente Sardegna e Sicilia. Questa condizione permarrà per la giornata odierna. Domani si registrerà una tendenziale diminuzione leggerissima delle temperature, che sarà più consistente nella giornata di domani, di domenica. D'Angelo, un'ultima domanda. Da quel che abbiamo visto nelle ultime settimane, questo forse è il primo momento dell'estate nel quale si registra, se non un'emergenza, o almeno un'emergenza solo in alcune parti del nostro paese per quanto riguarda gli incendi. Quest'anno, a naso naturalmente, perché i dati saranno disponibili a fine dell'estate, ci sembra di capire che le cose stiano andando complessivamente meglio. Soprattutto l'inizio della reale campagna di antincendi boschivi è avvenuto con un mese di ritardo rispetto a quanto sperimentato negli anni trascorsi, quindi ci attendiamo evidentemente che questo però perduri un po' più a lungo nel corso del mese di settembre. Chiaramente il bilancio verrà fatto poi alla fine della campagna. E grazie a Luigi D'Angelo, dirigente dell'Ufficio Emergenze della Protezione Civile, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie e buona giornata. E noi ricostruiamo, come si accennava poco fa, quello che è successo tra ieri e oggi, appunto, in Sardegna. La Sardegna inizia a bruciare nel primo pomeriggio di ieri. In poche ore, tranne Cagliari e Ogliastra, gli incendi, almeno 15, si propagano in tutte le province della regione. È il giorno della commemorazione dei morti del rogo di Curraggia del 1983. Una coincidenza che, secondo l'assessore alla difesa dell'ambiente della regione Giorgio Oppi, non è fatalità, ma una calcolata strategia di azione. Anche se la forestale conferma la natura dolosa di molti roghi, non si conoscono ancora le cause. Quello che si può raccontare è lo scenario dell'inferno di fuoco di queste ore. Alle 19 di ieri la conferma che nel Sassarese 2 persone erano morte, un pastore che cercava di mettere in salvo il gregge e un contadino, semi asfissiato dal fumo e colto da infarto mentre difendeva casa e podere. Decine gli intossicati, case abbandonate, più di 10.000 ettari di terreno divorati dalle fiamme, a Capopecora 200 bagnanti rimasti intrappolati sulla spiaggia di Scivo, Rendezvous, poco lontano i 200 detenuti del carcere di Isarenas in provincia di Cagliari trasferiti sul litorale. A peggiorare la situazione la forte ondata di caldo che in provincia di Sassari sfiora addirittura i 46 gradi. Da questa mattina all'alba un esercito di 1500 uomini tra vigili del fuoco, corpo forestale, ente forestale e volontari è in azione per fronteggiare un'altra giornata di emergenza. Ci dicono che ormai quasi tutti gli incendi sono domati, che non ci sono più pericoli per abitanti e turisti, ma anche che il vento è cambiato e che in queste ore la temperatura salirà ancora. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro in Sardegna. Tra poco daremo un aggiornamento più preciso rispetto a quanto non abbiamo fatto poco fa sulla situazione in Toscana, ma prima andiamo vicino alla Sardegna, andiamo in Corsica, altra zona turistica, anche se naturalmente siamo per così dire oltre confine, ossia in Francia, perché la situazione è molto difficile anche là. Temperature al di sopra dei 40 gradi e un'umidità praticamente prossima allo zero. Sono questi i principali ingredienti che stanno alimentando tre vasti incendi in Corsica. Le fiamme, sinora, non hanno fatto vittime, ma i danni sono importanti. Il fuoco, infatti, ha già divorato oltre 4.000 ettari di bosco e di macchia mediterranea e ha bruciato una decina di abitazioni. E mentre uno dei tre incendi sembra ormai sotto controllo, gli altri due avanzano pericolosamente. Preoccupa soprattutto l'incendio che sta avanzando a Péry, nei pressi di Aiaccio, dove i pompieri parlano di una lotta contro le fiamme casa per casa. E per far fronte agli incendi, in totale sono impegnati 11 Canadair e oltre 700 uomini tra pompieri e militari. Intanto però, stando alle prime ricognizioni, sembra già esserci una certezza. L'origine dei roghi sarebbe dolosa. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Roghi che tra l'altro stanno colpendo un po' tutto il sud dell'Europa, la Grecia, ma soprattutto sono una vera emergenza in Spagna, che è il paese più colpito. Dall'inizio dell'estate sono bruciati 15.000 ettari di campagna e sono 5 le vittime degli incendi solo questa settimana nella penisola iberica. Come annunciato però, ci spostiamo adesso in Toscana. Abbiamo sentito poco fa un breve aggiornamento dalla Protezione Civile, che ci diceva l'incendio che c'è in Toscana è più o meno sotto controllo. Dove hanno colpito i roghi? Lo chiediamo ad Ubaldo Cianciulli. Ubaldo. Sì, Simone, buongiorno. Situazione in Toscana sicuramente molto meno drammatica rispetto a quella in Sardegna. Bruciano anche alcuni territori in Toscana, soprattutto in provincia di Firenze, Lucca e Livorno. Gli incendi stanno interessando queste zone già da ieri. La situazione più difficile è a Iano Montaione, vicino al capoluogo toscano. Sono impegnati 3 elicotteri antincendio della regione, numerosi volontari e mezzi terrestri. Sono già stati bruciati oltre 25 ettari di bosco, ma è un bilancio provvisorio. Non ci sono state abitazioni evacuate e non sono segnalate neanche vittime. Incendi anche a Nocchie e Moneta di Camaiori in provincia di Lucca e a Bronzivalle nel Livornese. Sotto controllo complessivamente la situazione nel comune di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Andati in fumo 2 ettari di bosco a Villa Campanile, fiamme anche vicino a Arezzo, a Terontola e nel Grossetano, a Cicciano e Castel del Piano. Complessivamente sono impegnati una dozzina di mezzi aerei, sia nazionali che regionali, almeno una ventina di mezzi a terra e centinaia di persone tra vigili del fuoco, volontari e cittadini delle zone colpite dagli incendi. E come dicevamo, sicuramente non aiutano a contrastare gli incendi anche le alte temperature attorno ai 40 gradi centigradi. Ed è tutto, lì nello studio. Grazie Ubaldo Cianciulli anche a te per questi aggiornamenti. Noi continueremo naturalmente a darvene di aggiornamenti appena ne avremo, nel corso XL oppure nel corso della giornata. Cambiamo argomento adesso e andiamo alla politica e parliamo del Partito Democratico, perché ieri si è concluso l'iter per la presentazione delle candidature alla segreteria. Dopo tanti annunci, i candidati sono ufficialmente, oltre ai 3 nomi noti, ossia Franceschini, Bersani e Marino. Ieri alla chiusura dei termini si è aggiunto il nome dell'outsider Amerigo Rutigliano, 60enne romano, che già nel 2007 aveva cercato di correre per la segreteria contro Walter Veltroni. Fuori gioco Beppe Grillo dopo che il PD ha bocciato la sua iscrizione. Ieri sono tramontate anche le candidature del blogger Mario Adinolfi, che si è schierato con Franceschini, e dell'ex assessore romano e ideatore dell'Estate Romana Renato Nicolini, la cui voce proprio in merito a questo l'avete sentito pochi giorni fa in XL. Ma che ne pensa di questa battaglia il fondatore del Partito Democratico, quantomeno il padre nobile del Partito Democratico, Romano Prodi? Questa mattina Paolo Piacenza è riuscito ad intervistarlo e gli ha chiesto proprio questo. Sentiamo come è andata l'intervista. Non le rispondo, no, perché non voglio entrare Io sono un vecchio pensionato, una roba da buttare via, quindi... No, beh, non mi sembra proprio che si possa dire così, non mi sembra proprio che si possa dire così, soprattutto mi sembra che, come dire, senza entrare nelle dinamiche, però avere un'impressione di quello che fino adesso le sembri funzioni del processo complessivamente, invece quello che dovrebbe essere fatto in questi mesi che separano il partito dal congresso, anche per costruire un coinvolgimento, per evitare che l'impressione sia quella dello scontro tra i blocchi di potere. No, io sono solo contento che c'è stato un mescolamento, che è la cosa più importante, insomma. Questo è l'unico mio commento serio che faccio, no? Cioè il partito è un partito che ha bisogno di fondere ancora più le proprie radici e come si presentano di fronte alla sfida finale, diciamo così, questo obiettivo è stato raggiunto, ecco. Cioè lei dice il fatto che non ci siano, come dire, ex Margherita, ex DS in due blocchi separati? Sì. Questo era veramente il problema cruciale. Poi nel dibattito, chiaro, dovranno approfondire i temi programmatici, le linee di visione future del Paese. Questo è un processo che andrà avanti fino a ottobre. C'è spazio, c'è tempo. Ma la cosa importante era che questa fusione pre-congressuale è avvenuta, quindi non c'è nessun rischio di scissioni o divisioni, ecco. La sfida quindi è quella di anche di contenuti per il governo del paese. Se dovesse dire, finora le è sembrato che ci siano dei primi segnali, crede che sia ancora... Sono cominciati nei documenti che hanno presentato, è cominciato questo processo che dovrà andare avanti, ecco, questo è nulla di più. Se dovesse dire, io la domanda gliela devo fare perché è gioco delle parti, lei non ha individuato una mozione, un candidato che le sembra più... Non sono in condizioni di poter dare un giudizio, ecco, cioè io ho il mio giudizio, ma non voglio partecipare alla battaglia congressuale perché non mi sembra giusto, ecco. Io sono un iscritto al partito, ritengo che sia l'elemento fondamentale per preparare una democrazia dell'alternanza, ma è chiaro che non prendo parte al congresso, insomma, in modo attivo. E dunque questa era l'intervista a Romano Prodi del nostro Paolo Piacenza. Una notizia dell'ultima ora: i NAS di Roma e di Firenze stanno effettuando una perquisizione nelle abitazioni del corridore abruzzese Danilo Di Luca, lo sapete, scoperto positivo al doping durante il Tour de France, a Pescara, del dottor Carlo Santuccione a Cepagatti, Pescara. Vedremo che cosa succederà, se ci saranno aggiornamenti su questo. Certo è che la notizia ci porta su questioni sportive e quindi parliamo di calcio con l'affare fatto per Eto'o. Manca ancora qualche dettaglio, ma il viaggio nella notte di Ibrahimovic dagli Stati Uniti, dove ha salutato gli ormai ex compagni, verso la Svezia, dice più di mille parole. Il via libera ieri all'ora di pranzo a Milano. Il procuratore di Eto'o chiude la trattativa con l'Inter. 5 anni di contratto, 10 milioni e mezzo di euro netti più premi a stagione. Accordo totale, annuncia. Il giocatore sta molto molto contento. Tutto bene del momento. In serata la conferma ufficiale del Barcellona, la precisazione sui dettagli che riguardano comunque il rapporto tra l'attaccante e gli spagnoli, l'addio di Ibrahimovic all'Inter e la soddisfazione di Moratti, che incassa anche 50 milioni di euro il prestito di Leb e smorza le presunte tensioni con Mourinho. Qualche cosa che sapeva che poteva succedere, lui non pensava che Ibrahimovic potesse andare in un'altra squadra, ma ha una tale ammirazione per Eto'o che è rimasto molto soddisfatto e molto contento di questa possibilità, di questo scambio. Lunedì, il primo giorno in nerazzurro di Eto'o. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:17 minuti, 18 secondi, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato degli incendi che sono sostanzialmente adesso sotto controllo in Sardegna e in Toscana, mentre brucia ancora la Corsica e ci sono incendi anche in Spagna. E poi abbiamo sentito l'intervista all'ex Presidente del Consiglio, Romano Prodi, a chiusura di una parte del processo precongressuale del Partito Democratico. Adesso ci occupiamo di università. Perché su questo fronte ci sono decisioni importanti che arrivano questa mattina dal Consiglio dei Ministri, ma iniziamo con il nostro Andrea Viali, che era là e ha assistito a tutto, iniziamo da un fuori programma a firma Italia dei Valori. Andrea, che cosa è successo? Andrea Viali? Non abbiamo Andrea Viali e quindi dovremo attendere per il fuori programma. Forse abbiamo in collegamento il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo? Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, con Vincenzo Miglietta invece parliamo di decreto anticrisi e siamo collegati con la Camera dei Deputati perché questa sera, insomma, si vota la fiducia, una fiducia su un maxi emendamento che qualche polemica interna alla maggioranza l'ha creato. Com'è la situazione dal punto di vista politico, Vincenzo? Sì, è così. Vorrei solo ricordare in apertura che il testo sarà approvato nella sua interezza poi martedì dalla Camera e passerà poi al Senato per la conversione finale. Al centro del dibattito politico restano due temi: il ricorso alla fiducia da parte dell'esecutivo e l'introduzione nel maxi emendamento di norme non vagliate precedentemente da parte delle commissioni competenti. Su quest'ultimo punto c'è stato ieri un deciso faccia a faccia tra il Presidente della Camera Fini e il Ministro dell'Economia Tremonti. Fini ha rinnovato l'invito al Governo a non abusare per il futuro della formula dell'emendamento omnicomprensivo che di fatto fa capire Fini svuota di significato lo strumento del decreto legge. In tal senso si è espresso recentemente anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Sull'uso dello strumento della fiducia c'è invece il rituale botta e risposta maggioranza-opposizione. Ascoltiamo allora dal Popolo della Libertà il vice capogruppo Bocchino. Il Parlamento ha discusso in commissione approfonditamente il decreto anticrisi e il voto di fiducia è indispensabile per approvare presto un provvedimento che ci porterà presto e bene fuori dalla crisi economica. Questa la posizione della maggioranza. Per il centro-sinistra il decreto non va invece nei contenuti e nella forma, non è stata approfondita a sufficienza, dice il Partito Democratico, il decreto serve solo a fare cassa, aggiunge Donadi, Italia dei Valori, ascoltiamo. Ma quale anticrisi? Qui ci sono soltanto tutele per le banche e le grandi lobby, le piccole imprese sono abbandonate, per le famiglie non c'è nulla e si fa cassa con la pensione delle donne. Questa è la voce di Donati, ricordiamo quindi il voto di fiducia questa sera. Simone. Grazie Vincenzo per questi aggiornamenti. Sentivamo Donati che diceva cosa non c'è nel decreto, almeno secondo l'opposizione. Sentiamo invece che cosa c'è nella nostra scheda. Dallo scudo fiscale alla regolarizzazione di badanti e colf, passando per la mini riforma delle pensioni. Sono solo alcune delle novità contenute nel decreto anticrisi su cui il governo ha posto la fiducia. Tra le misure economiche del provvedimento, il via libera al rientro dei capitali esportati illegalmente fuori dall'Unione Europea fino al 31 dicembre 2008. Per i paesi europei che non applicano il segreto bancario, invece del rimpatrio si potrà procedere alla semplice regolarizzazione dei capitali in loco. Arriva poi la mini riforma delle pensioni. Dal 2015 viene elevata di qualche mese l'età per uscire dal lavoro. Per le donne dipendenti pubbliche sale la soglia per la pensione di vecchiaia. Dagli attuali 60 anni si passerà a 61 nel 2010, a 62 nel 2012 e così via fino ad arrivare a 65 anni nel 2018. Le misure in favore delle imprese. Arriva la moratoria dei crediti per le aziende colpite dalla crisi. Le agevolazioni finanziarie alle PMI saranno oggetto di una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana. La norma meglio nota come Tremonti Ter esclude dall'imponibile delle imprese il 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature industriali. Per favorire poi la ricapitalizzazione delle PMI sarà possibile escludere dal reddito d'impresa il 3% l'anno per 5 anni dei capitali freschi apportati dai soci. Il tetto massimo è di 500.000 euro. E infine si potranno regolarizzare i lavoratori stranieri e italiani. Per colf e badanti il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di 500 euro. Paola Cavadi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso siamo in grado di collegarci con Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Eccoci Simone, buongiorno. Allora, dicevamo che si è parlato di università in questo Consiglio dei Ministri, si è parlato di sanità, ma partiamo dalla parte, dal fuori programma, Andrea. Che cosa è successo? C'è stata una protesta che definirei singolare. Il protagonista è stato Stefano Pedica, che è un parlamentare, un senatore dell'Italia dei Valori, che ha di fatto rubato la scena al ministro Gelmini, che era scesa in sala stampa per illustrare i contenuti dei provvedimenti sull'università che sono stati varati oggi. Cosa ha fatto Pedica? Cosa ha detto? In pratica ha protestato, se l'è presa con il Consiglio dei Ministri, che da 4 mesi dice non decide di sciogliere per infiltrazioni mafiose un comune in provincia di Fondi, in provincia di Latina, il comune di Fondi, dove diversi amministratori, ha ricordato, sono stati arrestati per collusioni con la criminalità organizzata. Insomma, c'è un allarme in questo comune da tempo e il governo non sta facendo nulla, dice in sostanza Pedica. Il ministro Gelmini ha provato a interromperlo, in realtà non ci è riuscita, gli ha anche assicurato poi che della vicenda comunque il governo, il Consiglio dei Ministri si occuperà in una delle prossime riunioni. Di fatto però ha prevalso la caparbietà di Pedica, il ministro quindi ha abbandonato la sala stampa. Andrea, la conferenza stampa è stata rinviata. Quindi è interrotta la conferenza stampa di Maria Stella Gelmini, però le notizie ci sono e qua veniamo... È stata interrotta, Simone, poi è ripresa pochi minuti fa, sta ancora parlando il ministro Gelmini, ma è ripresa in un'altra sala di Palazzo Chigi per evitare Pedica. Allora, veniamo ai contenuti, Andrea, delle decisioni del Consiglio dei Ministri, soprattutto sul fronte dell'università. Esatto, sul fronte dell'università sono novità che riguardano in particolare la struttura e il funzionamento del neonato ente, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, che appunto sarà quello che dovrà valutare il funzionamento dei nostri atenei, ma a cambiare sempre in campo universitario sarà anche il modo in cui vengono ripartite le risorse del fondo di finanziamento ordinario, che ora più che in passato saranno dirottate verso quegli atenei e quegli enti di ricerca che hanno dimostrato di essere più virtuosi. Questo per quanto riguarda l'università, ma come dicevi si è parlato di sanità, sono state prese anche qui decisioni abbastanza importanti, direi, perché stamattina il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare il sistema sanitario di 2 regioni che sono la Campania e il Molise, e a gestirli adesso saranno i presidenti, i governatori di queste 2 regioni, ma non è escluso che poi la gestione della sanità appunto di Campania e Molise verranno poi affidate a dei subcommissari. Infine c'è stato spazio anche per alcune nomine. In conclusione, Enrico Giovannini è stato nominato nuovo presidente dell'Istat, mentre il generale Giuseppe Vallotto è stato designato come nuovo capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Simone. Grazie Andrea per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo a parlare della trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici che inizia oggi. Chiara Di Michele segue questa prima giornata per noi. Chiara, che cosa ci puoi dire? Immaginiamo non ci siano ancora moltissime notizie, però forse possiamo riassumere le posizioni. Infatti è così, l'incontro è ancora in corso e la trattativa è partita in salita. Perché, Simone? Perché il tavolo è unico, ma le piattaforme sindacali sono 2. Da una parte FIMCISL e UILM, che si richiamano al nuovo assetto definito con l'accordo del 22 gennaio di quest'anno, consigliato a Palazzo Chigi da tutte le parti sociali, tranne la CGIL, che invece fa ancora fede all'accordo del 23 luglio 1993. Il contratto dei metalmeccanici scade a fine anno. Oggi al tavolo con Federmeccanica presumibilmente si comincerà a fare chiarezza su quale delle 2 proposte sarà oggetto della trattativa. Nello specifico, tra i vari punti, la FIOM chiede un aumento salariale medio di 130 euro per il biennio 2010-2011, mentre la piattaforma di FIM e UILM, che seguono i principi del nuovo contratto, prevede un aumento di 113 euro per il triennio 2010-2012. La FIOM inoltre sollecita le aziende al blocco dei licenziamenti e quindi dobbiamo attendere la fine di questo incontro per capire meglio come procederà la trattativa. Questo confronto dovrebbe anche fissare un calendario di incontri a partire da settembre. Per il momento è tutto. Grazie Chiara Di Michele. Oggi tra l'altro c'è stata anche l'assemblea della Coldiretti, sentiamo che cosa è emerso. Dopo 3 giorni di manifestazioni in tutta Italia, con presidi ai valichi di frontiera contro l'ingresso dei prodotti contraffatti e mucche in giro per i supermercati alla ricerca del latte veramente italiano, la Coldiretti ferma le proprie mobilitazioni. A dichiararlo il presidente Sergio Marini, a seguito della bozza di decreto presentata ieri dal al ministro Zaia sulla tracciabilità dei prodotti caseari. Abbiamo sospeso la mobilitazione, siamo consapevoli comunque che i problemi dell'import riguardano praticamente tutti i prodotti dell'agroalimentare, pertanto valuteremo in autunno se non dovesse esserci una ripresa rispetto alla discussione sulla legge generale che in questo momento è in aula per la rintracciabilità di tutti i prodotti, eventualmente di riprendere la mobilitazione. Una battaglia che per Marini non è votata al protezionismo ma a una trasparenza che porterà vantaggi tanto all'Italia quanto all'Europa. Intanto però prende forza l'idea di una filiera tutta italiana. Gli agricoltori italiani vogliono mettersi insieme per garantire un prodotto che arriva direttamente al consumatore con pochi passaggi, realizzato 100% italiano, in cui il produttore stesso sia a metterci la faccia, con tanto di marchio e con tanto di garanzie. E proprio in questo senso è arrivato l'accordo tra Coldiretti e UNCI, Unione Nazionale Cooperative Italiane, un'intesa che si pone l'obiettivo di realizzare la più grande centrale agroalimentare nazionale, che radunerà oltre 3.000 cooperative. Savino Gallo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dall'agroalimentare passiamo a parlare di cibo. Sentiamo i consigli per il fine settimana del nostro Davide Paolini. Oggi per una serata di venerdì, magari chi si trova in vacanza in Sicilia, offro un indirizzo particolare che è l'hotel Il Baglio della Luna ad Agrigento, sotto i Templi. E cos'è di molto particolare? Bene, si può cenare avendo la vista, ovviamente con l'illuminazione, sugli straordinari templi della Valle dei Templi, quindi sicuramente è un posto che vale una serata oltre il menù. Il menù è molto, molto variegato, uno chef molto creativo di questo ristorante che si basa molto sul pescato del mattino o su quello che trova al mercato. Però ad esempio vi posso dire di aver mangiato un tortino di melanzane con crocchetta di pecorino primo sale, un culì di pomodorini, cappelletti con mousse di astice. Bene, potrei continuare. Vi lascio alla sorpresa, vi ridò l'indirizzo. Appunto, chi andasse a visitare la Valle dei Templi è il Dehors dell'hotel Il Baglio della Luna. Buon appetito. Le 13:33 minuti, riassumiamo le principali notizie della giornata. Gli incendi sono sostanzialmente sotto controllo ora in Sardegna, ma brucia anche la Toscana. Ci sono rischi per i prossimi giorni a causa delle alte temperature. Ci sono fiamme in Francia, Spagna e Grecia. In Italia premiato il merito degli Atenei. Più fondi alle università migliori nelle decisioni del Consiglio dei Ministri, 525 milioni di euro stanziati complessivamente. Il Partito Democratico, Prodi parla a Radio 24, dice la fusione precongressuale c'è stata, ora non ci sono rischi di scissione. Influenza A, secondo l'OMS siamo vicini alla propagazione totale. Tra un attimo sentiremo esattamente che cosa questo vuol dire. In Inghilterra un terzo delle vittime non aveva altre patologie. Decreto anticrisi, dopo le tensioni nella maggioranza sul maxi emendamento, oggi ci sarà la fiducia. Nei prossimi anni crollo dei prezzi della droga, mentre sul mercato tornerà l'eroina, lo dice uno studio della regione Lombardia. Salutiamo Roberto Bertolini, portavoce per l'Italia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Buongiorno. Buongiorno. Allora, gli ascoltatori l'hanno sentito nei nostri titoli, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla del fatto che siamo vicini alla propagazione totale. Allora, detta così potrebbe anche preoccupare. Che cosa vuol dire esattamente? Ma vuol dire che rispetto ai 194-195 paesi che sono membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè sostanzialmente i paesi del mondo, la malattia si è diffusa in oltre 150 paesi, quindi siamo vicini al fatto che casi di questa patologia siano stati riportati in tutti i paesi del mondo, quindi è semplicemente una osservazione di carattere descrittivo, diciamo così. E di carattere geografico, cioè vuol dire semplicemente la malattia è arrivata dappertutto, no? Esatto, sta arrivando dappertutto, ovviamente con tempi e modi diversi. Alcuni paesi, si tratta soltanto di casi importati da viaggiatori, sono recati nelle zone più affette, in altri paesi è in corso, come ad esempio l'Inghilterra, una vera e propria fase epidemica e così via. Rispetto a quando se n'è parlato all'inizio di questa influenza A, nel momento immediatamente successivo, no, alla propagazione da parte dei suini, c'era molta preoccupazione. Adesso mi sembra che anche da parte vostra, anche da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sia una maggiore tranquillità, anche perché non sembra essere un'influenza così forte, no? Ma vede, è quello che noi abbiamo sempre temuto anche nel corso degli anni scorsi, quando c'è stata le varie crisi legate all'aviaria, diciamo, le ricorderà senz'altro questi episodi, c'era la preoccupazione che la pandemia potesse svilupparsi da quel ceppo virale, che era un ceppo virale particolarmente aggressivo, con una mortalità, seppure anche in quel caso iniziale dal punto di vista, diciamo, della descrizione epidemiologica, molto elevata. È evidente che quando questa malattia si è cominciata a manifestare non erano ancora a disposizione dati sufficienti per poter descrivere le caratteristiche di aggressività di questo virus. I primi casi sembravano avere, le prime, diciamo, classi, i primi aggregati epidemici sembravano indicare una letalità maggiore. Man mano che la malattia si è sviluppata, i casi sono stati registrati, la descrizione epidemiologica si è approfondita, ci sono dati più attendibili, si è evidenziate le caratteristiche, di questo virus, che sono quelle di una pandemia influenzale di gravità moderata, come diciamo noi, quindi che ha una mortalità piuttosto bassa, diciamo confrontabile, anzi addirittura in alcuni casi inferiore a quella della epidemia influenzale stagionale. A questo punto la domanda che viene naturale: serve da parte dei governi fare incetta di vaccini, come è stato annunciato nei giorni scorsi da parte del governo italiano? Cioè, è una cosa veramente utile, o se l'influenza, come dice lei, è veramente paragonabile in termini di mortalità all'influenza normale, è una cosa, diciamo, un vero e proprio di più, ecco? Ma guardi, prima di tutto le ricordo che durante le influenze stagionali ci sono dai 3 ai 500 mila morti l'anno, quindi non è proprio una cosa banale. Ovviamente questo è associato a patologie croniche, di solito sono gli anziani che hanno una maggiore mortalità, e come lei sa, durante tutti gli anni si fa una grande campagna di vaccinazione per la popolazione anziana, che ha una sua giustificazione nel ridurre appunto la mortalità che è associata all'epidemia influenzale. Ora, rispetto a questa epidemia, bisogna considerare da un lato che l'epidemia colpisce di più i giovani di quanto colpisca la popolazione anziana, e inoltre il fatto che una massiccia epidemia non controllata, che magari abbia un picco in un periodo di tempo molto ristretto, può portare alla paralisi di un paese, nel senso molte migliaia o milioni di persone ammalate allo stesso momento possono creare una situazione anche difficile dal punto di vista economico e sociale. Quindi io credo che la vaccinazione di massa sia giustificata, anche perché non sappiamo come evolverà questo virus attualmente a queste caratteristiche. Ora ci auguriamo che non accada, ma è possibile che questo virus muti queste caratteristiche, quindi io credo che la vaccinazione sia giustificata e vada fatta ovviamente in modo intelligente, cioè va fatta gradualmente, prima il personale sanitario, poi le persone a maggior rischio per caratteristiche personali e anagrafiche e così via, insomma in base poi alle risorse che sono disponibili nei singoli paesi. Quello che noi tendiamo a voler fare, anzi vogliamo fare, è quello di garantire a tutti i cittadini del mondo almeno in linea di massima gli stessi diritti, quindi ai cittadini europei o occidentali che hanno la possibilità di accedere al vaccino facilmente, cioè, si possono affiancare quelli dei paesi del terzo mondo, dei paesi in via di sviluppo, che invece questa possibilità l'avranno con maggiore difficoltà. Grazie Roberto Bertolini, è stato chiarissimo, portavoce per l'Italia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a voi e agli ascoltatori. Noi tra poco torneremo a parlare dell'influenza A e sentiremo una testimonianza dall'Inghilterra, ma intanto ci vogliamo occupare di droga, perché ci sono dei dati che sono stati diffusi oggi, che sono apparsi oggi sul Corriere della Sera, che fanno parte di un rapporto stilato dal Prevolab della regione Lombardia, un laboratorio che si occupa anche di queste cose. Da questo rapporto emerge che per quanto riguarda l'eroina abbiamo un mercato in aumento del 40% nei prossimi 3 anni, sono previsioni naturalmente, e 160.000 eroinomani previsti. Nel 2012 i consumatori delle droghe da discoteca, cosiddette da discoteca, arriveranno a circa 1.700.000, snifferanno cocaina e 270.000 pasticche per una dose, e poi l'abbassamento dei prezzi: per una dose di polvere bianca nel 2012 si spenderanno 13 euro, solo 7 per una di eroina. Andiamo con ordine. Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento di Dipendenze di Milano e dirigente del laboratorio Prevolab della regione Lombardia, che ha stilato il rapporto, benvenuto. Buongiorno. Allora, andiamo con ordine, come si diceva, e partiamo proprio dalla diffusione dell'eroina, Gatti. Beh, la diffusione dell'eroina si muove su numeri decisamente inferiori a quelli, per esempio, della cannabis o della cocaina, però secondo noi è un segnale importante perché In questo momento i prezzi, come lei stesso ha detto, sono in continua discesa e questa è evidentemente una strategia di mercato. Si vuole che la droga sia alla portata di chiunque, un normale doping della vita quotidiana, un'alternativa per il divertimento a una pizza e una birra, il costo più o meno è simile, senz'altro meno costoso di un happy hour. L'eroina viene messa sul mercato per i tossicodipendenti, diciamo così, tradizionali, ma anche e soprattutto in questo momento per i più giovani, quelli che quando in Italia c'era l'emergenza droga uguale emergenza eroina nemmeno erano nati, non c'erano, quindi non hanno, si è parlato per adesso di influenza, anticorpi culturali rispetto a questa sostanza che chi è appena un po' più vecchio di loro invece considera una droga trash, una droga non interessante, una droga pericolosa legata alla malattia, alla morte, all'emarginazione. E quindi cominciano a usarla nel modo più semplice, cioè a fumarla, così come si fumano altre sostanze, e potrebbero costituire un mercato interessante perché l'eroina è una sostanza in grado di dare rapidamente tolleranza, cioè necessità di aumentare la dose per avere lo stesso effetto e conseguentemente dipendenza. Allora, siccome è un momento di crisi, una delle cose che noi segnaliamo in Prevola è che il mercato della cocaina sta incominciando a flettere la sua crescita e si sa già per altri problemi riguardanti l'economia che quando i mercati incominciano a flettere nella crescita non è mai un buon segno per gli investitori e il mercato della droga è un mercato di gente che investe in questo. Beh, a un certo momento la mia sensazione è che questo mercato stia facendo un qualche cosa di simile a quello che fanno le famiglie quando comprano i titoli di Stato nei momenti di crisi, magari si guadagna di meno ma è un guadagno sicuro. E l'eroina, se ricostituisse un parco di tossicodipendenti da eroina, visto che il vecchio parco di tossicodipendenti da eroina ormai è invecchiato, potrebbe essere una sorta di stabilizzatore, certo, di garanzia. E siccome i giovani sono il futuro, anche il mercato della droga investe nei giovani. Mi sembra che abbiamo dato un quadro abbastanza esaustivo. Io l'ultima cosa che le vorrei chiedere in merito a questo rapporto che avete fatto è il fatto che non lo fate casualmente, è roba sulla quale poi lavorate, che vi consente di intervenire, quindi in qualche misura sono delle previsioni che non è detto che si realizzino, perché se sulla base di queste previsioni riuscite a lavorare efficacemente, naturalmente può darsi che non si realizzino e sarebbe meglio così. Prevola è la parte, diciamo, fondamentale di un modo di lavorare nuovo rispetto alla droga. Noi ci siamo resi conto che il mercato della droga e anche degli abusi di sostanze, anche non illecite, lei pensi solo all'alcol che in questi periodi incomincia a essere usato anche lui come una droga, insomma la capacità di prevedere significa anche la capacità di prevenire, noi non possiamo prevenire cose che sono già successe, dobbiamo essere più avanti sia per il lavoro di prevenzione sia per l'organizzazione dei servizi. Io credo che in questo senso fortunatamente siamo un passo avanti e cerchiamo nel nostro limite, nel senso che la previsione è pur sempre una previsione ma viene aggiornata ogni 6 mesi, cerchiamo di dare una mano anche a tutti gli altri, quelli che lavorano in questo settore. In questo senso i dati di Prevola sono disponibili sul sito della Regione Lombardia. Ma vi sono già serviti a qualcosa? Beh, assolutamente sì, nel senso che il sistema di intervento sulle dipendenze in Lombardia, anche se non si vede, ha già avuto delle mutazioni importanti, da una parte dei servizi, quelli territoriali, per dire i SERT, servizi multidisciplinari integrati, pubblici e privati, che per esempio in questi anni si sono dovuti riconvertire in modo assoluto, nel senso che oggi a Milano per esempio una persona su due di quelle che vengono ai nostri servizi sono persone che usano cocaina, ci sono moltissime persone che sono socialmente integrate, che hanno un lavoro, che hanno famiglia, insomma è qualcosa molto diverso dallo stereotipo che la gente ha in testa delle persone che vengono a SERT, cioè devianti, emarginati eccetera, che pure rimangono, non è che ci sono, ma si è aggiunta una popolazione molto ampia, tra virgolette normale, di gente sì, normale, che è stata tirata dentro in questo tipo di mercati. Completamente e anche la diverso. Prevenzione sta cambiando, cioè nel senso che la prevenzione di una volta era la prevenzione andiamo lì e spieghiamo in modo scientifico i gravi effetti delle droghe, la gente si spaventa e non si userà più e non le userà più. Ci siamo accorti che questo modo di fare prevenzione in realtà incrementa il mercato, cioè alla fine chi si è già accostato a droghe ascolta la descrizione di altri quasi fosse un catalogo e si interessa ad ulteriori consumi. Quello che noi invece stiamo facendo è creare moltiplicatori dell'azione preventiva, cioè la possibilità per le persone in qualche modo di reagire criticamente a un mercato che dietro ha un marketing molto potente. Certo. Cioè, le 13:47 minuti e 38 secondi, come si diceva, torniamo a parlare di influenza A. Oggi sono stati diffusi dei nuovi dati dall'Inghilterra, nei quali si dice che un terzo delle persone che sono morte a causa dell'influenza A, della nuova influenza in Inghilterra, appunto in Gran Bretagna, non soffrivano di altre patologie, in sostanza erano sane e sono morte esclusivamente a causa dell'influenza. Al di là di questo, Nicoletta Carbone in Essere e Benessere ha fatto il punto sulla situazione con il professor Paolo Paredi, che è uno pneumologo e professore all'Imperial College di Londra, ospedale Royal Brompton, per capire soprattutto la situazione di chi è là in vacanza di studio. Ma prima di tutto mi sento di rassicurare tutti i genitori. Ci sono 100.000 nuovi casi di influenza H1N1 registrati in Inghilterra nella scorsa settimana. Questo è un aumento del doppio rispetto alla settimana precedente. Questa settimana, per fortuna, posso dire che il numero di nuovi casi è diminuito, quindi sembra che forse stiamo iniziando una discesa verso un numero inferiore di casi. Bisogna guardare un po' in prospettiva su tutta la popolazione inglese quanto questo significa. Significa che una persona su 500 ha avuto o ha l'influenza in Inghilterra in questo momento. Quindi bisogna incontrare 499 persone prima che alla fine se ne incontri uno con l'influenza. Siamo a un livello molto inferiore rispetto alla pandemia del 1968, quindi è sicuramente una situazione che bisogna tenere sotto controllo, ma bisogna anche metterla in prospettiva e, come vi ripeto, mi sento di rassicurare. Professore, va nel caso il nostro figlio, mia figlia parte per l'Inghilterra, mi telefona e mi dice: mamma, mi sento l'influenza, la tosse, la febbre. Come si occuperanno di mia figlia i medici inglesi? L'Inghilterra è molto pronta da questo punto di vista, si è agito molto repentinamente fin dall'inizio per contenere la situazione. Dal punto di vista pratico ci sono due modi per avere informazioni riguardo cosa fare. Uno è chiamare i medici di famiglia locale, i quali fanno una diagnosi presuntiva e possono dispensare addirittura al telefono ricette per il trattamento con un antivirale, il Tamiflu. Alternativamente si può fare la stessa cosa su una linea verde telefonica che è stata aperta proprio ieri, o su internet, dove si ricevono, oltre a informazioni generali sulla patologia, è anche possibile ottenere una ricetta per il Tamiflu, che poi viene raccolto in centri di distribuzione localizzati un po' in tutto l'Inghilterra. Quindi c'è un metodo diretto attraverso la situazione con il GP, con il medico di famiglia, oppure indiretto per via internet o attraverso la linea verde che le dicevo. Professor Paredi, ma è vero che i ragazzi, adesso noi parliamo dei ragazzi nostri, ma in genere, no? I pazienti inglesi vengono curati a distanza, e questo proprio per limitare il contagio? Sì. Va l'amico dal medico? Sì. Le raccomandazioni sono esattamente come dice lei. Nel momento in cui si pensa di avere l'influenza, si chiama il GP, il medico di famiglia, il quale, attraverso un'analisi telefonica, c'è cioè una specie, noi chiamiamo checklist, dove si controllano una serie di sintomi. Se i sintomi sono corrispondenti all'influenza, viene dato un numero, un voucher, un numero al paziente, il quale poi dovrà darlo ad un amico che andrà con questo numero stesso in un centro di distribuzione per il Tamiflu a raccogliere il medicinale. Questo per evitare il contagio nelle diversi ambulatori. Torniamo alla politica e torniamo a parlare del parere negativo espresso dal plenum del CSM sul progetto di riforma del processo penale voluto dal ministro della giustizia Alfano. È in contrasto con i principi costituzionali, quali l'obbligatorietà dell'azione penale, la ragionevole durata dei processi, si legge nel documento, avrà effetti gravi sull'efficacia delle indagini. Sotto accusa in primo luogo la scelta di spostare il motore delle indagini nelle mani della polizia giudiziaria, a danno appunto dell'obbligatorietà dell'azione penale e della separazione dei poteri. Sentiremo le due opinioni divergenti. Iniziamo da quella di Livio Pepino, togato di Magistratura Democratica. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Con la proposta di modifica si rendono i servizi di polizia giudiziaria autonomi dal pubblico ministero e addirittura la relazione di accompagnamento dice che questo avviene per stabilire una sorta di rapporto quasi concorrenziale tra pubblico ministero e polizia giudiziaria che, secondo la relazione, garantirebbe dei risultati migliori. La nostra convinzione, la valutazione dettata non da questioni di principio ma anche dall'esperienza pratica, è che una situazione del genere, che già esisteva nel nostro sistema, renderebbe in realtà da un lato più difficili i rapporti di collaborazione, in secondo luogo aprirebbe notevoli preoccupazioni su alcune indagini delicate, perché la dipendenza della polizia giudiziaria non dall'autorità giudiziaria ma dall'esecutivo potrebbe determinare dei condizionamenti. Non è una preoccupazione teorica, sono stati fatti nel dibattito degli esempi, che so io, la perquisizione a Castiglione Fibocchi che ha portato alla scoperta della P2 sarebbe avvenuta se gli ufficiali della Guardia di Finanza che l'hanno eseguita avessero dovuto riferire al generale della Guardia di Finanza che era negli elenchi della P2? La strage di Peteano, che è risultato avere ampie compromissioni dei servizi, sarebbe stata scoperta nei suoi autori senza l'indipendenza della polizia giudiziaria? Voto contrario invece da Gianfranco Anedda, laico del PDL, così come Michele Saponara, che parla di un parere che è pregiudizialmente contrario alla riforma voluta da Alfano. Come al solito il parere è come altri, pregiudizialmente contrario a tutte le iniziative del governo. E in questo caso in particolare non soltanto contiene delle valutazioni politiche che non competono ovviamente al CSM, ma addirittura ha stravolto il significato della norma. Uno dei principali motivi di avversione è la parte che riguarda l'equilibrio, insomma, tra polizia giudiziaria PM. Questo è stato fatto ed è chiaramente esplicitato anche nella relazione, perché si sono avuti episodi di abuso di questa dipendenza con pubblici ministeri che si sono costituiti un nucleo alle proprie ristrette dipendenze per fare indagini per conto loro. Con la giustificazione della ricerca della notizia del reato, i pubblici ministeri hanno disposto dei sequestri, hanno autorizzato delle intercettazioni. Ecco, la norma vuole impedire questi eccessi restituendo alla polizia giudiziaria il potere e l'obbligo di ricercare la notizia del reato e lasciando ai pubblici ministeri la direzione, come è giusto che sia, la direzione delle indagini. Siamo quasi in chiusura e siamo con il nostro Dario Ricci, come al solito, gli aggiornamenti dai mondiali di nuoto. Dario. Sì, buongiorno dal Foro Italico, Simone, a tutti gli ascoltatori. Beh, oggi è soprattutto la giornata di Michael Phelps, il grande campione americano, che nel pomeriggio parlerà per la prima volta qui a Roma, è sbarcato il grande squadrone americano, e poi però in contemporanea di fatto noi azzurri, noi italiani, faremo il tifo per Francesca Dallapè e Tania Cagnotto, che saranno impegnate nella finale del trampolino dai 3 metri sincro. Seconde dopo i preliminari dietro gli inarrivabili cinesi, chissà che non ci scappi qualcosa di bello, diciamo così, Simone. Dario, molto brevemente, forse hai un'intervista da farci sentire. Direi proprio di sì, perché parliamo anche di un'iniziativa benefica che parte dai Tuffi. A metterla in atto sono i fratelli Marconi, Maria, Nicola e Tommaso, che domenica al Cursal di Ostia daranno vita a una gara di Tuffi benefica. Sentiamo come nasce l'iniziativa proprio da Tommaso Marconi. Beh, è nata dal fatto che comunque già da tanti anni noi organizziamo eventi di beneficenza, ci sembrava carino invitare tanti campioni, con l'occasione dei mondiali, invitare tanti campioni di tuffi, campioni olimpici, campioni europei, campioni mondiali, e sono contento che tanti di questi campioni hanno aderito senza battere ciglio, senza volere un soldo, con l'unico scopo di fare della beneficenza. Ecco, l'obiettivo è la ricostruzione di questo asilo in Abruzzo, all'Aquila, no? E noi ringraziamo anche tanto la provincia, la regione che ci hanno sostenuto in questo nostro progetto, perché è un progetto importante, e speriamo che non finisca qui, speriamo di riorganizzarlo l'anno prossimo con lo stesso fine, avendo la possibilità di invitare anche tanti altri campioni. Sarà una grande festa, qualche anticipazione, dai, tante sorprese, ma dici qualcosa. È un'anticipazione che forse al 99% ci saranno anche grandi campioni di calcio. Allora, buon divertimento, e magari ci possiamo aspettare un Totti che fa un carpiato. Anche un De Rossi. Allora Dario, grazie mille anche oggi per questi aggiornamenti, dai mondiali di nuoto. Ti risentiremo tra poco in A Tempo di Sport. Riassunto delle principali notizie della giornata: incendi sotto controllo ora in Sardegna, ma brucia anche la Toscana, fiamme anche in Francia, Spagna e Grecia. In Italia il merito degli Atenei, più fondi alle università migliori, 525 milioni stanziati. Partito Democratico, Prodi parla a Radio 24, la fusione precongressuale c'è stata, ora non ci sono rischi di scissione. Influenza A, secondo l'OMS siamo vicini alla propagazione totale. Nei prossimi anni crollo dei prezzi della droga, mentre sul mercato tornerà l'eroina, lo dice uno studio della regione Lombardia. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Peter Bescapè, al coordinamento Daniele Biacchessi. Il prossimo giornale radio è alle 15, il GR Extra Large torna invece lunedì alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.